Ciao Guscio. Santiago 5, Radio 5. Sto provando prima. Sì, sento bene. Santiago 5, in che zona sei? Tizi Bassa. Ah, ho capito. Andiamo, ti ascolto bene, sei di fronte a casa mia in teoria, là. Io ho capito che tu sei. E a me come mi ascolti? Siamo di fronte in teoria. Capito? No, io sono Sassari Carbonati. Ah, allora, più o meno il mio caso. Sì, siamo di quello che ti dirai, è meno, perché io tizio lo vedo tutto. Tizio, oh sì, vero. Vedo la chiesa di Tizi, in chiaro, da qua. Quindi già sta vendendo, per essere un apparecchio di quelli piccoli che stanno facendo adesso, con quegli antennini magnetici piccolini, già va bene. Se cambia antenna vedrai già esce meglio. Che apparecchio è un? Io non l'ho mai sentito, la verità. Di quelli che si comprano da Alibaba. La tua l'ho preso, però quella che è il cello, parentesco, per me, perché la guarda, è più completo con l'antenna, però qua, ancora la sì, infatti le antenne che stanno facendo adesso non sono più quelle di una volta. Hai capito? Io ho comprato uno di impiego di cubo di baracchio, per carità, 70 euro spesso, ma l'avessi fatto peso e lo regalato immediatamente, usciva 5 watt, ma di radio non c'era nulla, di microfono pesava manco 30 grammi, sembrava che avessi comprato 5 fette di salame da quanto pesava. Ma quello a me lo diceva, ma il mio proprio faceva schifo. Quando ho aperto, ho visto la capsula, c'era un altro parlante dentro, non c'era una capsula. Infatti mi sono buscato uno di quei microfoni della Mobicom e gli ho messo uno di quelli e funzionava bene. Poi ho preso, ho regalato insieme alla canna da pesca, l'alimentatore e quelli che usa cosa, che vendono dai cinesi, 30 pecche, avevo pagato 15 euro, figurati. La stazione fissa l'ho regalato, che posso dire, con 70 euro me ne sono uscito. No, io ci sono gli apparecchi belli in vendita, la verità, 50, 100 watt, già ci sono, già li ho visti, su internet è pieno. Poca gente c'è, ma qualcuno già c'è all'ascolto, già entra ogni tanto. Vabbè, io sono qua all'ascolto, non c'è problema, là, fai pure. Vabbè, con l'apparecchio con la CD sigaro non è che consuma molto. Ah, se tieni molto acceso è un discorso diverso, quello devi farlo con lineare, non col baracchino. Va bene. Già sono qua in ascolto, con la baracchina non c'è problema. Sì, ciao, a dopo. Come quello che ha ucciso tua madre. Io dico di sì. Seguendo quei ragazzini che torno, ti picchierò come non ho fatto mai, hai capito? Sono stato chiaro? Sì. E ora va a vederti come si vede. Così sarà troppo grande. Subito. pensando qua, chi è che lo vuole? Oi, Pompu, ancora vivo, sì. Buonasera. Sei ancora vivo solo, tu vivo sei ancora. Stata via, aspetta che mi tocco le ciliegine. Ai, me li bucco. Ai, briciola. Ai, fede assaggio. Ciao Luca. E beh, pompucco. Cacciamo un giorno, stato nel baracchino. Boh. Vado, sì. Si sente? Sì, sì, sei andato bene, sei andato, non ti preoccupare. Questa qua la batteria esiste, questo microfono. Boh. Esiste, esiste, non ti preoccupare. E beh, Lu. E beh, G. Ascolta a me, niente da fare. Sei da fare controllare. No, configurato tutto quanto, resettato, sempre a basso livello di segnale. Ciao, telefono che è mezzo andato. È telefono vecchio anche, capito? Passo tutti i 5G. Il mio la stava parlando in 4G. Secondo dove non mi prende a me il telefono. Adesso vediamo appena a posto me lo cambio. E 4G o 5G, tutto va a fare in aria, ma giusto. All'agosto funzionano tutti i 5G. Perché spengono la... Hai capito? Quindi la TV si prende la frequenza e i telefoni cominciano a lamentare. E per lamentare, infatti il ripetitore 5G, già lo sai, sì. È l'agosto. Bello casino, bello casino. Bella femmina, bella femmina, ragazzi. Te l'ho visto l'altra volta, Luca. Da Giovanni a Pascolo. Tu, però fai, boh, da Pascoli ero. E via, da Pascoli ti ho visto, ero con Giovanna io. Stavo andando, di sabato era, stavo andando da Cristiano al circolo. No, ma tu stavi andando al circolo io. Io stavo andando al circolo, tu stavi diventando a casa tua, al monte. No, poi c'era la settimana scorsa, ma c'era troppo caldo, ci ha fatto mangiare in piazza. C'era da scherzare. Io dovevo andarci oggi, invece non sono andato, troppo caldo c'era, capito? Per mangiare sotto la tenda con caldo che vena, la cappellina a fottidini. Quando c'è un pochettino di vento, se tra due sabati ci vado, se no se la via in Napoli. Ma dove è il bobo? E scooter ci scendo io e Giampiero, tutti e due. Lui con quello scooter suo piccolino, io con il mio. A mangiare lì? Ma a mangiare lì, Pompo. Ho capito. Ho detto, a mangiare da Cristian sei andato. No, devo andarci oggi. Hai capito? Solo che ieri già avevo sentito male. Se non saremmo andati io in scooter con quello che ho preso e Giampiero con quella carrozzina elettrica. Cioè io scooter elettrico con quella pranziana e Giampiero con la carrozzina elettrica. Siamo andati assieme, siamo rientrati assieme. E Giovanna si è sceso in macchina. Almeno aver preso un pochettino di fresco, ragazzi, scendendo. Anche per stare in macchina, piano piano si è sceso. Ponte Nuovo si è sceso giù, aveva girato dalla parte di Giannina, sceso dritto, aveva lì preso la strada per la Teloce e siamo arrivati tranquillamente lì via Botte. Cinco, Manuele, Cinco, ma che te ne hai fatto? Sto mangiando, sto preparandomi per andare a lavorare. Ah, ho capretto, quindi stai preparando per andare a lavorare. Già va bene, già va bene. Purtroppo è un brutto vizio. Lo so. Hai preso quel lavoro, quindi ti devi adattare, caro mio. Quello che basta che sia assicurato, meglio di niente. O domani magari troverai qualche altra cosa e la vita ne vai e sei a posto. È la domanda di uscire. Ciu.